Noi sappiamo che la Chiesa continua a leggerci la parola di Dio della Bibbia nella Messa, perché questo è un insegnamento per la nostra vita. Ora, abbiamo sentito il Salmo responsoriale, numero 77, che diceva: ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato della nostra storia di fede degli anni scorsi, noi non lo terremo nascosto ai nostri figli, anzi racconteremo alla generazione futura tutte le azioni e le meraviglie che Dio ha compiuto per noi. E così si fa. Cioè, nelle famiglie si trasmette la storia precedente a noi. Anzi, una delle cose più belle per dei figli è ascoltare la storia della propria famiglia. Quando ero piccolino mi ricordo che queste feste di Natale era l'occasione in cui si raccontava, magari vedendo alcune foto di una volta, quando la zia Maria aveva le trecce lunghe, quando il nonno aveva un certo tipo di giacca, aveva un giubbino, un gilerino. Si raccontava, raccontare le cose passate è utilissimo per i figli. Questo vale anche per la fede. Dobbiamo raccontare la nostra fede ai nostri figli. Troppe volte si dà eccessiva importanza alla parrocchia. Ma ci penserà a catechismo? No, la prima educazione avviene in famiglia, esattamente come a scuola. Ma ci penserà la maestra a insegnare? Sì, insegnerà le cose pratiche, tecniche, ma l'educazione si trasmette a casa. Allora io prenderei con voi questo insegnamento, no? Bisogna che raccontiamo ai nostri figli la storia della nostra fede. Vi porto qualche piccolo esempio. Una volta mi hanno fatto vedere un testamento che cominciava così, pressappoco: queste sono le mie disposizioni testamentarie in favore della mia famiglia. Primo punto: lascio in eredità ai miei figli la mia fede cristiana. Uè, si è rimasti lì con gli occhi aperti così, eh? Un papà che scriveva: lascio in eredità ai miei figli la mia fede cristiana, non mi è mai capitato di leggerlo in nessun testamento, e forse neanche a voi. Eppure è vero, eh? O noi lasciamo solamente le cose materiali? Noi dobbiamo lasciare ai nostri figli il nostro patrimonio morale, spirituale, la nostra fede, il nostro esempio. Oh, sì, io do l'esempio ai miei figli. Andiamo adagio, bisogna vedere se è vero, eh? Per esempio, ai tuoi figli gli lasci come modello di essere in pace con i tuoi fratelli e con le tue sorelle? Oppure Natale non si fanno gli auguri a Tizio, a Caio, perché tanto loro non li fanno a me? Amici, se in casa insegniamo ai nostri figli a fare il primo passo, questo trasmettiamo la nostra fede, una fede di pace. Se in casa nostra i nostri figli vedono che il papà e la mamma sono generosi, ma non nei soldi appena, sono generosi nello spendersi per gli altri. Cari miei, che eredità! Io ho provato a sentire alcuni uomini che dicevano: la mia mamma è stato un esempio di accoglienza, ha sempre accolto tutti in casa. E mi raccontava da alcuni nipoti che sono stati tenuti in casa per dei mesi quando la loro mamma era malata, per esempio. Oppure trasmettere la nostra fede ai nostri figli con una vita modesta. Magari i soldi non ce n'è tanti, ma quando ce n'è qualcuno in più, certe volte magari si fanno spese un pochettino fuori dalle righe. E questo non è un esempio da trasmettere ai nostri figli. Io posso dire in casa mia, mio padre, per esempio, ci ha insegnato a leggere la stampa cattolica. In casa nostra entravano una dozzina di pubblicazioni di stampa e c'era la buona stampa parrocchiale. Mio padre faceva gli abbonamenti con un assegno, perché era mica un abbonamento o due, eh? Io ho imparato l'amore alla stampa cattolica da mio padre. E sarebbe veramente bello raccontare, come io sto facendo con voi, cari amici, raccontare in casa non solo le cose passate della nostra famiglia, ma raccontare anche le cose spirituali, le cose del buon esempio, ciò che abbiamo vissuto e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato della nostra fede passata. Non lo terremo nascosto ai nostri figli, racconteremo al Signore, alle generazioni future, le grandi cose che il Signore ha fatto per noi.